sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Amort, ti avrà detto qualcosa il signor Amort? Signor Amort. Mi ha detto che il caso era grave. Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto? Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire. Cioè, ma immaginale. Che ha fatto? Cioè? Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui. Ci hai provato con padre Amort? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Buona zanzara, buona zanzara a tutti. Oh, good night everybody, come si dice, caro Parenzo? Allora, buonasera, buonasera. No, non voglio sentire buonasera, non voglio mai sentire buonasera. Ma perché dici no, good non night? Voglio. Mi ricordi il nostro amico, chi? Oh mamma mia, ma sono diventato ricordato come Cruciani, che conduceva Matrix. Ma no, ma quello diceva un'altra cosa. Il nostro amico Vinci. Ma io lo dico per scherzo. Ma poi... Vinci era straordinario. No, Alessio Vinci diceva, come diceva, good night and see you soon. Good night and see you soon. Ma siamo in Italia, amico mio, dai, di che parli, su. Dai. Allora, voglio dire una cosa ai nostri amici tassisti. Io li amo, li adoro. Su questa vicenda dei taxi, di Uber, della concorrenza, eccetera, eccetera, io sono sempre stato dalla loro parte, sempre stato dalla loro parte, perché sono i politici italiani che devono prendersi la responsabilità, i politici italiani che devono prendersi la responsabilità di cambiare le leggi esistenti. Allora, cambiassero le leggi e dicessero che il servizio di taxi Uber può operare in Italia. Con le leggi esistenti siamo sul crinale, siamo su una situazione in cui si opera in sostanza, non dico fuori legge, ma quasi. Per cui i politici italiani devono prendersi la responsabilità di cambiare le leggi, così Uber può tranquillamente operare. Però, si facciano avanti, chiamino la zanzara, coloro i quali nella notte tra martedì e mercoledì hanno messo un manifesto sotto casa della general manager in Italia di Uber, che si chiama Benedetta Rese Lucini, la quale può naturalmente essere contestata, però non bisogna essere vigliacchi, non bisogna essere vigliacchi. Hanno messo un manifesto, un lenzuolo con su scritto: Benedetta Rese Lucini è una puttana e riceve in via eccetera eccetera. Per l'assessore Maran, che è l'assessore dei trasporti di Milano, è gratis, significa che sostanzialmente gliela dà Maran. Allora, quelli che hanno fatto questo manifesto dovrebbero chiamare, se hanno il coraggio, qui la zanzara, e spiegarci perché hanno scritto questo manifesto. Beh, perché no? No, perché minacciano in questo modo? Perché minacciano in questo modo una signora che potrà essere contestata per quello che dice, per le posizioni che ha, eccetera, e però non può essere minacciata con un cartello, con un manifesto. Come fanno? Io so che il 99% dei tassisti milanesi, romani, italiani sono delle bravissime persone, certo. E si facciano avanti e contestino questo modo di fare. perché non si può scrivere Benedetta Rese è una puttana e riceve in via che è la sua via di residenza. Oppure qualcuno è convinto di questo, che bisogna minacciare il rappresentante di Uber, che è una compagnia che fa un taxi alternativo, chiamiamolo così. Per cacciarli dall'Italia bisogna minacciarli. Magari qualche tassista è convinto, ci chiami. Oh, la vicenda prostitute. La vicenda prostitute, il Partito Democratico è riuscito a dire, il Partito Democratico a Roma, i progressisti del Partito Democratico sono riusciti a dire, attraverso il loro massimo rappresentante che si chiama Orfini, che la prostituzione è un fenomeno da contrastare e non da governare. Bene. Una cosa incredibile, incredibile. E devo dire che è bravissima invece la Cirinnà, che è un'animalista storica del Partito Democratico, quando dice che ci vuole la partita IVA, la ricevuta fiscale per le prostitute. Molto chiaro, semplice. Signora Cirinnà. Si parla di partita IVA, di ricevuta fiscale, di controlli sanitari, esattamente quello che succede nella civile Europa che sta ai nostri confini. È tornata a parlare anche Marione Adinolfi su questa cosa qui. Certo. Marione Adinolfi, che la pensa come te, Parenzo, la pensa ieri come te. Matrix. La pensa come te, la no, pensa momento, come te. Il mio è un pensiero più articolato. Ci vogliono, sì, vabbè, ci vogliono multe da 500 euro a casa. Bisogna intimidire la clientela. Ah, questo sì, no, su questo ha ragione. Ha ragione che bisogna intimidire la clientela. Io pensavo su un altro discorso, su questo ha ragione. Pazzesca, dai, pazzesco, dai. Per combattere lo sfruttamento, ma certo. Ma che sfu- per combattere la prostituzione, dice Adinolfi. No, le signorine che fanno. Ma non si può distinguere. Infatti io ho un atteggiamento diverso rispetto ad Adinolfi. Adinolfi. Solo per colpire la criminalità. Vabbè, tutti siamo per colpire la criminalità. No. Tutti, Adinolfi. Bisogna rendere impossibile ai clienti andare a sfruttare il corpo della donna in quella maniera vergognosa, e per farlo basta fare un serio lavoro di intimidazione della clientela con il meccanismo che le amministrazioni comunali hanno delle multe elevate a 500 euro inviate a casa, perché vi assicuro che se inviano una multa a casa al signor cliente della prostituta e lui poi se la deve vedere con la moglie o con la madre, quindi, o col padre, la cosa diventa un po' più problematica. Su una posizione veramente patetica, multare i clienti risolve la situazione. È vero che in tanti paesi si fa, in alcuni paesi si fa. Paesi del nord, poi Svezia, Norvegia. Allora, il nostro amico Sberna, dopo aver detto che i gay, se fossero poveri, non avrebbero tempo di fare i gay, come se essere gay fosse un hobby. E non una. No, o roba da ricchi più che altro, vabbè. O roba da ricchi. Ha chiesto scusa a Scalfarotto, ma ha parlato anche di prostitute. Per esempio, un signore, un uomo che cerca una prostituta, dovrebbe, invece di scopare con questa prostituta, dovrebbe masturbarsi, secondo Sberna. A posto di andare con una donna, se il camionista è mancino, usa la sua mano sinistra, ma lascia stare un essere umano. Lo lascia stare, c'ha tutte queste impellenti necessità di tre minuti, perché poi dopo questi sono i tempi, per cui mi somiglia di più, ma somigliava di più al mio cagnolino quando andavo in giro per strada, insomma, questo modo di fare, abbi pazienza, ma cosa ha a che fare con l'amore? La vicenda Schettino, sentiamo Schettino che piange in tribunale dicendo che sono morto anch'io quel 13 gennaio. Vabbè, ma è un modo per difendersi, ragazzi. Sì, non bisogna. Il tweet di Salvini in risposta. Ah, Salvini a ha detto: peccato che non sia morto pure lui. Esatto. Probabilmente non è stato compreso che quel 13 gennaio sono in parte morto anche io. Giustamente oggi Facci scrive: a proposito dello sconto imbecillità, è stato condannato a 16 anni, sapete? Perché il disastro della Concordia sarebbe stato commesso senza colpa cosciente. Qualche volta i giudici si inventano delle sentenze veramente incredibili. Cioè 16 anni senza, perché ha commesso quello che ha commesso senza colpa cosciente. Beh, ci mancava pure che voleva ammazzare le persone. E dunque lo sconto. Per carità, 16 anni non sono pochi, ma all'altro quanto hanno dato in Corea? Cioè non mi ricordo se 35, 38, 39, 40. Ma dai, su ragazzi, se Schettino prende 16 anni, diciamola tutta, se Schettino che porta una nave a distruggersi sul Giglio e per colpa di quella roba lì muoiono 30 rotte persone, più feriti, eccetera, eccetera, se uno del genere piglia 16 anni e un divieto di interdizione dalla guida, pensa, questa è la cosa più comica, per 5 anni, ma chi cazzo darà mai una nave da condurre a Schettino? Tu te lo immagini un annuncio a una nave, il comandante Schettino vi augura buon viaggio, e la gente scappa con le scialuppe, cazzo. In realtà a me scatterebbe la questione contraria, perché avendo già questo fatto un casino, sarà molto più attento. No, io invece avrei l'atteggiamento contrario. Cioè, tu li faresti come... guidare un'altra nave? Ti posso dire ma di tu più. Tu sei completamente pazzo. No, dai. Ma te lo dico con una provocazione. Non deve più portare una nave, Parenzo. No, ma tutt'altro. Ma dai, dovrebbe. Su. Sì, perché userà molta più prudenza adesso. Ma tu te immagini il comandante fatto... Schettino vi augura buon viaggio, sì, la gente diventa pazza. No, cioè, la gente si dice fatemi scendere, scusami, ma ragiona. Fermo tu, fermo lì. È con noi uno gioielliere, che è stato all'oggetto al centro di tutta questa vicenda della rapina a Nanto, provincia di Vicenza, con il benzinaio adesso accusato di aver ucciso il signore Rom Cassol, 41enne. Roberto Zancan, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Come sta? È stupito che Schettino abbia preso 16 anni? Partiamo da questa cosa qui. In Italia, con la giustizia in Italia, è stupito? Guardi, qua in Italia ormai non c'è più niente da stupirsi. Mi sto rendendo conto che purtroppo gira tutto quanto all'incontrario, tutto alla rovescia sta andando qua. Senta Zancan, ma la famiglia del Rom Cassol, nomade, dicono che il gioielliere si doveva fare i cazzi loro, i cazzi suoi. Il benzinaio doveva farsi i cazzi suoi, sì. Difatti li ha fatti lui i cazzi suoi. Cioè, li ha fatti nel senso che ha difeso certo. Se stesso. Certo. No, loro lo dicono in senso, cioè doveva farsi i cazzi suoi, cioè non doveva intervenire, insomma, no? La famiglia, questi Cassol, i signori Cassol. Guardi, io non ho parole, perché bisognerebbe trovarsi in certe circostanze. Sì. Ok? Sì. Bisognerebbe trovarsi, che qualcuno si trovasse in certe circostanze. Io dico solo una cosa, che il benzinaio che si chiama Graziano Stacchio mi ha salvato la vita a me e a quella povera ragazza che era dentro con quel malvivente che la stava minacciando. Sì. Perché non è vero che la ragazza ha chiuso il malvivente tra le due porte della bussola, ma era dentro con lei. Sì. Voglio precisare questo perché è ancora più grave la cosa. Cioè l'avvocato della famiglia Cassol dice che la rapina sostanzialmente si stava chiudendo e che probabilmente poi parlava ovviamente non nel caso... L'avvocato che si chiama? Si chiama Murgia. Murgia, era lì? No, non era lì. No, vabbè, però l'ha ricostruito con delle perizie, con delle robe. Che l'ha ricostruito? Con quello che gli hanno detto chi? Che non si sa. Farà anche lui delle indagini difensive, immagino. Sì. Io ero lì. Beh, questo non c'è dubbio. Dunque, il benzinaio ha agito per legittima difesa e ha salvato la vita. Cioè, senza l'intervento del benzinaio, lei sarebbe morto. Sa cosa ho fatto io? Mi dica. Sono partito dall'azienda quando mi sono accorto cosa stava succedendo. Sono arrivato là, armato solo della forza della disperazione, ve lo giuro. Sì. Ok. E ho alzato le mani, ho detto state fermi, non fate niente, vi apro io. Sì. Ok? Graziano mi guarda, fa ma tu sei pazzo, torna indietro, non ho neanche fatto ora dire così, che ho sentito un colpo sparare che mi ha schivato la testa, che mi resterà impresso finché vivo quel sibilo lì. Dunque è stato legittimo rispondere in questo modo? Cioè sparare a queste anche alle gambe, sembra che abbia sparato alle gambe. Non solo legittimo, doveroso. Era doveroso. Se restavano a casa sua, per la sua famiglia non succedeva niente. Non terrorizzavano un paese. E comunque, Graziano Stacchio non ha sparato. Ha sparato tutta Ponte di Nanto, ha sparato tutta Vicenza, ha sparato tutto il Veneto, ha sparato tutta l'Italia. Perché siamo stanchi, morti di essere trattati in questa maniera qua. Cioè, come se avesse... Noi onesti cittadini non possiamo neanche difenderci da bande di delinquenti patentati, ok? Del genere di quello che è necessario morto. Armarsi secondo lei? Lei ce l'ha una pistola, un fucile o qualcosa del genere? Sì, che ce l'ho. Cioè, ovviamente essendo gioielliere, eccetera. Tutti non esiterebbe a sparare se si trovasse di fronte a un rapinatore? Guardi, quella sera lì sono stati anche fortunati che non avevo l'arma con me. Altrimenti avrebbe sparato. Cosa dovevo fare? No, una domanda. Cosa dovevo fare? Incassarli? Una buona mira ce l'ho, di certo non mi intimidiscono quel tipo di persone lì, perché non gliel'ha mica ordinato nessuno di fare quello che devono fare. Su questo non c'è dubbio. Di quello che vanno in giro a fare. Sì. O forse che andava in giro a fare, perché adesso non lo fa più. eccoci di nuovo qui, è con noi Roberto Zancan, il gioielliere che è stato vittima della rapina, dove è intervenuto poi il benzinaio Stacchio. I parlamentari della Lega oggi hanno esposto una maglietta: io sto con Stacchio, con chi difende il territorio, eccetera. Lei è d'accordo col fatto che i politici sfruttino, io dico, questa vicenda per farsi pubblicità, eccetera, eccetera, dalla Santanchè a questi politici della Lega, Zancan? No, che usino questo caso per farsi la loro pubblicità, no, però posso dire anche che tanti mi hanno telefonato e spero che non sia proprio così, Salvini l'ha chiamata? No, ancora no, ma ho una persona da lui molto vicina che è qua domani mattina alle 8:30. Una persona vicina che è venuta alle 8:30, ma lei per chi vota? Zancan? Non è un segreto, si può anche dire. Guardi, cioè io non mi sono mai interessato di politica. Però in questo momento c'è un partito più vicino a lei che le fa, che si occupa di sicurezza, sicuro, eccetera. Beh, è logico che la Lega Nord. Beh, logico. Per cui non lo so, in Veneto. È logico per me, scusi. No, certo, no, benissimo, è logico. Ma in Veneto fra poco si vota. Lei chi sceglierà tra persone? Chi è la persona che la rende, diciamo, che secondo lei che può portarle più sicurezza? Al momento non lo so ancora, comunque. Più o meno, chi voterebbe adesso? Zancan, mica è mica il confessore, confessionale del Grande Fratello qua, cioè. Ma ci mancherebbe altro. No, ma non è mica. Cioè, quelli che hanno le idee più chiare sul discorso della sicurezza, perché è la Lega. Esatto. È la Lega. Dunque lei oggi vota Zai in Veneto. È la Lega, è anche Forza Italia, sono qui, ce n'è più di qualcuno. Perché la sinistra in Italia che c'ha che non va? Mi sembra che quando si vada a toccare questo tema venga giù il mondo quando si parla con loro di questa cosa, almeno quando ne parlano loro. Sì, sì. Dunque in questo momento in Veneto lei non ha, diciamo, non ha dubbi su chi votare? No, non ho dubbi. Non ha dubbi, cioè voterà per Zaia? Ma non è mica ha detto che vota per Totò Riina, scusi, guardi che a me Zaia piace, cioè non è che, appunto, dico per questo, questa è una domanda, mica ha detto che vota per Totò Riina, cioè è semplicemente una domanda. No, quello che volevo sapere prima sulle armi, Zancan, era questo. Sì. Lei ha detto di possedere un'arma o più armi, che armi possiede? Sono tutte armi denunciate, perché ma certo, quello non c'è dubbio. E quante ne ha? No, più di una. Ma si può dire che c'ha fucili, pistole? Giusto, gioielliere, per forza. Ho tanti amici gioiellieri che sono armati. No, per certo, forza. Ma la curiosità ma è mica sapere. Mica solo in Veneto, ne conosco a Roma, a Milano. Guardi, stiamo parlando di un argomento molto serio, giusto? No, ma certo, sì. Ma infatti per sapere lei quante armi ha, se ha una pistola, un fucile, tre allora, armi. Di quante ne ho, penso che non sia importante di quante sì. Ne ho. Penso che sia importante invece capire che io ho sempre avuto il porto d'armi e sì. Da quando sono stato sequestrato con i miei figli piccoli dentro certo. Casa, da quella volta non ho più voluto avere il porto d'armi. Ok? Però adesso ce l'ha di nuovo, no? Adesso io ho le armi, sì. Ok? E non ho il porto d'armi. Ma come fa avere le armi e non avere il porto d'armi? Perché io ho il permesso di poterle tenere dentro. Ah, di tenerle, di non usarle, sì, però. Di tenerle dentro la mia abitazione. Comunque adesso ho chiesto di avere il porto d'armi. Ha chiesto di avere il porto d'armi. Ma senta, lei ha qualche, cioè il fatto che quello là sia morto, che cosa le provoca? È meglio che sia morto un rapinatore? Mi dica la verità, non prova nessun tipo di compatimento per la morte del rapinatore? Guardi, quando muore una persona, che sia buono o cattivo, è sempre una brutta cosa. Sì. Perché si spezza sempre la vita, sì, a una persona. Sì. Però? Dopo non tocca a me giudicare se questo stava bene morto oppure se stava bene vivo. Io so soltanto che con quello che ho subito, tanta pena non mi fanno, capisci? Perché loro sanno... pena chi rapina non le fa? No. Cioè la morte di una persona non le fa tanta pena? Beh, di un rapinatore no. Grazie, a presto. Okay. Grazie Zancan, a presto. A lei, saluti, saluti. Buona zanzara a tutti. Didn't lose that call of joy. faccio giù le orecchie. Non perché non le conoscano le parolacce, ma perché preferirai un mondo migliore. Migliore è rosa, fiori, profumo, vita. Non cazzo, culo, merda. Migliorati. C'è un deputato dei 5 Stelle, caro Parenzo, Mallio Di Stefano, credo che sia anche il capogruppo, forse, o è stato, sai, lì cambiano sempre. Mallio Di Stefano che dice, a proposito della legge elettorale, queste discussioni infinite, nemmeno Mussolini fece tanto. Questo PD, versione Renzi, sì, è la rappresentazione del nazismo formato ventunesimo secolo, ti giuro. Del nazismo. Nazismo. Vabbè, nazismo. Dai, dobbiamo ringraziarti ancora una signor volta. Mallio Di dobbiamo Stefano. Dobbiamo ringraziarti signor Mallio ancora una Di volta. Stefano. Dobbiamo ringraziarti, dai, ancora. Su. Grazie, Cruciani. Ma che c'entro io, scusa? Grazie, che c'entro grazie. Io? Ma grazie sei impazzito. Moltissime. Grazie. Grazie per aver mandato in Parlamento questa, per aver, scusami, pardon, contribuito a mandare in Parlamento questa gente. Grazie. Grazie moltissime, Grazie. Non dire puttanate, dai. Grazie, su. Grazie, davvero. Andiamo a Pavia, Marco. Non il mio nome, Vai, Marco, vai. Io non gli ho mandati. Buonasera. In Parlamento. Dimmi, dimmi. Buonasera. Io volevo intervenire per la vicenda che ha riguardato l'omicidio dello Zingaro. Molto semplicemente, ma io ritengo che gli zingari dovrebbero estinguersi come razza, è una razza che dà problemi. Cioè, sì. Estinguersi che cosa vuol dire in concreto, caro Marco? Dovrebbero cessare la riproduzione, non so come dire. Cessare la riproduzione, cioè, dovrebbero essere gasati, non lo so. Io una mia idea, cioè quando... La sua idea qual è? Se molto semplicemente. Quando sì. vanno a partorire a nostre spese negli ospedali, sì, sì. magari per sbaglio il ginecologo... alle donne asporta, non so, l'ovulo, cioè lei dice magari che bisogna qualcosa, aspetta ma sì, insomma, che bisogna sterilizzarli, no, ma sì, bisogna cosa, sterilizzarli, ma sì. Ma sì, più o meno sì, adesso non voglio dire proprio una cosa del genere che è un po' forte, però insomma, beh, questo si forse diciamo fortina. Cioè, a me la cosa che stupisce è che sì. un signore sì. ascolta la radio, no, ascolta, cioè. Poi prende il suo telefono e compone il numero verde 800 24 0024, sì, no? Sì, sì. Interviene, sì. lascia il suo numero al centralino, sì. per dire una cosa di un razzismo e di un nazismo incredibile, cioè si qualifica anche una volta, no, no, una volta no, almeno aspetta, le persone si nascondevano, capito? Fallo parlare un attimo. Chi era, chi proponeva signor Marco idee? Da Pavia sta dicendo, sta no, no, dicendo quello da che Pavia, pensa come tanti aspetta altri. Stai fermo, quello che pensa sui Rom, sui Rom, no, ma non è questione aspetta, Rom o non Rom, io vorrei capire, questione... secondo lei Hitler no. ha fatto bene allora ad agire nei confronti no, dei no, Rom o no? No, no, no, no, io sono quanto di più lontano esista dal nazismo. Ma se lei ha detto che i Rom, no, che i Rom è una razza no, no, che merita io, l'estinzione, ma l'hai detto tu prima. Non lo dico, l'ha detto Tiziana Maiolo in un'intervista. Ma Tiziana Maiolo non ha affatto detto no, questo. Mai detto nulla, ha fatto l'assessore ai servizi sociali a Milano. C'era anche, penso, David Parenzo in trasmissione ai tempi. Sì, ma non ha mai detto nulla del no, genere. È l'unica etnia? È l'unica etnia che non vuole integrarsi. È un'etnia. Va bene, d'accordo. Questo può anche essere che sia così. Ma lei no, ha detto un'altra cosa, che è una razza che merita l'estinzione. Io esagero, quello che pensa. Quello che ha detto lei ha detto quello che pensa. Sì, vabbè, posso anche pensarlo, però. Cioè, lo pensa. La zanzara, posso anche dirlo, perché alla zanzara c'è libertà di pensiero. Posso ma non è questo libertà di pensiero, va benissimo libertà di pensiero. È una persona. Cioè, secondo che lei, se estinguessero tutti quanti, se morissero tutti quanti, non sarebbe un danno per no, nessuno. No, non ho detto esattamente il contrario. Ma no, come no? Ha detto che non si devono riprodurre. Ha detto che non si devono riprodurre. Ha detto di peggio, ha detto che sei il ginecologo, no? No, lei ha fatto, scusi Marco da Pavia, lei ha fatto un ragionamento anche complesso, perché ha detto, semplicemente mi stanno sui coglioni i Rom, che va bene, ma lei ha detto, vanno in ospedale a nostre spese a partorire, anche qui ok, a nostre spese, benissimo, quando il ginecologo estrae il bambino o la bambina, lei ha fatto tutto un ragionamento complessissimo, ha fatto su come cioè si dovrebbero eliminare. Cioè dovrebbe a quel punto uccidere il feto, diciamo, questo uccidere. Questo che è agghiacciante. No, non ho detto questo, causare una lesione gravissima, eventualmente. Ma come Scusi se non l'abbiamo capito bene. Perdoni davvero, caro Marco da Pavia. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, non abbiamo. Cioè, non era un'uccisione del feto. No, era proprio una lesione permanente. Dai, Marco. Ma tu ti rendi conto? Ovvio che me ne rendo conto, altrimenti non vi avrei neanche chiamato. Certo che me ne rendo cioè, conto. Cioè, tu allora, a ti stanno folia, talmente sul cazzo. Pensi che sia una razza, come dire, un'etnia che provoca danni. È un'etnia odiosa e odiata. E può portare. È agghiacciante quello che dice questa persona. Pessimi pensieri, sì, caspita. Ma che cosa fanno secondo te? Qual è il danno che provocano? È agghiacciante. Di tutto, dal mio modo di vedere la cosa peggiore è far mendicare i bambini, c'è una cosa che non riesco a tollerare. Proprio quindi giustamente risolviamo il problema all'origine facendo provocare delle lesioni permanenti. È incredibile. È incredibile. E poi sono comunque non so come definire, sono persone che vivono al di fuori di ogni regola, ma non della società civile. Cioè, lei invece vive nello stato di diritto. Lei, in base a quello che ha detto, invece lei vive nello stato di diritto invece. Cerco, ci prova. Lei ha teorizzato una cosa che è da stato di diritto, diciamo, questa cosa. No, vabbè. Non ho detto questo, non ho teorizzato nulla. Marco, siccome non la voglio mandare in galera, la lascio. Arrivederci, ciao. Arrivederci. And now the headlines news channel 3. E adesso i titoli del TG3. Accordo raggiunto a Minsk per una tregua nell'est Ucraina da domenica. C'è ancora molto da fare, dicono Parigi e Berlino, e Kiev denuncia l'arrivo di carri russi. Vertice a Bruxelles su Ucraina e Grecia sul debito di Atene. Merkel apre al compromesso, prima intesa tra Tsipras ed Eurogruppo. La BCE tende una mano ad Atene. La battaglia è cambiare la politica economica europea, dice Renzi, che invita l'Unione a fare di più anche nel Mediterraneo. Polemica per la fine di Mare Nostrum. Riforme, tensione sempre alta dopo il via libera alla seduta a Fiume, fallisce il dialogo PD 5 Stelle, Guerini al TG3, non accettiamo veti da nessuno. Sciopero nazionale dei vigili urbani dopo lo scandalo assenteismo a Roma e in corteo della capitale, non siamo tutti corrotti ma c'è anche chi fa autocritica. Neonata con problemi respiratori viene rifiutata da 3 diversi ospedali a Catania, muore in ambulanza. L'ira dell'assessore Borsellino, non mi fermerò davanti a nessuno. 2014, anno nero per la libertà di stampa, per Reporter Senza Frontiere l'Italia perde 24 posizioni, soprattutto perché aumentano i giornalisti minacciati dalla mafia. Milano. Cucciani? Dimmi. Allora, volevo intervenire per quello che aveva detto prima. Sì. Allora, intanto voi date per scontato che siano stati dei tassisti, mentre io sono dell'opinione che sono gli autisti di Uber che lo fanno, sapendo che la colpa viene data chiaramente a noi. Allora, Emanuela, tu sei una tassista? Sì, esattamente. E non sono sicuramente d'accordo. Supponendo che siano stati dei tassisti a cioè parte. No, però mi stai dicendo una cosa interessante. Secondo te quel manifesto, quel lenzuolo appeso di fronte a casa del capo di Uber Italia, dicendo sostanzialmente lei è una puttana, fa le marchette con l'assessore, questo è l'indirizzo, eccetera, non è stato messo dai tassisti, ma è stato messo da quelli di Uber perché mettiamola così, potrebbero essere stati loro, sapendo benissimo che la colpa sarebbe stata data a noi, mettendo un'altra volta così in cattiva luce i tassisti. Comunque non sono chiaramente d'accordo che l'abbia fatto sia l'uno che l'altro, non mi interessa, è chiaro che è un gesto che non andava fatto. C'è anche però da dire che in Italia non c'è un ma, perché scusami Emanuela, io sono dalla parte vostra su questa vicenda e l'ho detto prima, cioè io sono dalla parte di chi non è questione di essere dalla parte vostra, io penso che i politici italiani sulla vicenda dei taxi si devono prendere una responsabilità cambiassero la legge. Bisogna spiegare anche questo agli amici tassisti, che ad oggi cioè puoi cambiare la legge, cosa vuol dire ad oggi permettendo Uber di agire nella legalità in altri paesi, ma scusami, in altri se paesi, Uber non è nella legalità, ma scusami però, c'è cioè la logica, in Italia è possibile tutto, dai, in Italia è possibile anche agire al di fuori della legalità. Non spiegar niente, ma capire una cosa. Allora, se Uber è oggi fuori dalla legge, qualcuno farà un ricorso, come è stato fatto al TAR o dov'è, sì, ma infatti in alcuni paesi al TAR, e lo mettono e lo chiudono. Se invece non è così, vuol dire che le leggi già ci sono che permettono di far operare Uber. Emanuela, sì, ma se intanto opera, vuol dire che può operare, non è detto, no? Non è detto. Allora, in questo momento non può operare come vogliono loro, e questo è il punto. Loro vogliono l'abolizione di alcuni punti della legge quadro, vabbè, che permetterebbe ai signori noleggiatori di comportarsi praticamente come certo tassi. Allora, ma ha ragione la signora, va bene. A noi può anche stare bene, però allora a noi taxi deve essere concesso la deregolamentazione e di comportarsi, vabbè, come noleggiatori. Sì, se quello certo, dipende dai comuni però pietra, quello. Appunto, ma allora certo, certo. E questo è il concetto, il gesto è sbagliato. Dipende da Pisa Pia, da come si chiama, da Marino, scusi, da questo, Emanuela, da Emanuela, evidentemente se questa tutte le minacce che ha ricevuto questa signora, che è il capo di Uber, da chi vengono secondo te? Scusami. Io sicuramente potrà sì che anche qualche testa calda tra i tassisti ci sia, non lo discuto. C'è gente che si è indebitata fino all'inverosimile per comprare una licenza e magari ovviamente gli girano un po', non lo so, però dico anche che siccome sì, ma diciamo che di sono intollerabili queste minacce tutti, contro la signora, contro la Benedetta. Certo, no, su questo siamo veramente d'accordo. Perché non c'è bisogno, potete fare gli scioperi, potete incazzarvi, potete fare quello che volete. Ma facciamo noi con i sindacati che sono sempre dalla parte del potere, in realtà facciamo degli scioperi da burattini. Infatti io ti sono d'accordo, però dovremmo fare uno sciopero come fanno i francesi. Cioè bisogna paralizzare la nazione intera, allora forse ci ascoltano. Va bene, Emanuela, grazie, ciao. Pronto? Pronto? E il conduttore? Sai una cosa, Parenzo, più passa il tempo e più sono solidale con quel vecchio sporcaccione di Dominique Strauss-Kahn, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, già candidato all'Eliseo in Francia, il quale è sottoposto a un processo assurdo a Lille, sempre in Francia, per favoreggiamento della prostituzione, non so che altro. L'unica cosa che stona è il fatto che dice di non essere consapevole che quelle fossero delle prostitute, che in realtà le prostitute gli reportava il suo amico imprenditore. Adesso questo, insomma, lasciamo perdere, va, consapevole o no. Però, francamente, mi pare una follia. Mi piace il sesso rude, così ha detto Dominique Strauss-Kahn. Sì, appunto, penso, di avere penso di avere una sessualità più rude rispetto alla media degli uomini. Ma le mie pratiche sessuali, che piacciono o no, non riguardano il tribunale. Vogliamo sentire cosa bolle in pentola a Radio Padania? No, a quest'ora c'è gente che cena, eh? Sigla, Radio Padania, vai. C'è gente che è a cena. Servi di Roma, Roma fuori, senza dubbi né pensamenti. Il Rom fa una rapina, guarda, spara avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Ascoltatori avvelenati per l'ipotesi di un accordo Salvini-Berlusconi. Senti, senti. Guarda oltre i monti. Non doveva neanche sedersi al tavolo con Berlusconi, per me, come per tanti altri, perché è veramente uno schifo. È uno schifo sedersi al tavolo con una persona condannata, non tanto perché è condannata per quello che ha fatto, ma anche per quello che non ha fatto. Può fregarvi meno piuttosto che un'altra alleanza con quella gente lì, è meglio perdere. Cioè veramente è meglio perdere. Se i cittadini veneti vogliono andare a Remengo, che si arrangino. Figlia della libertà. Ma una volta non c'era, il distacco dal sud, il sud che fa schifo. Senti infatti questo ascoltatore. Io non sono d'accordo con la politica di aprire al sud Italia, assolutamente no, il sud Italia, via il meridione d'Italia. Perché, Gian Paolo? Senti, timidamente dice, perché Giampaolo? Sì, Pellegrino, Barin, sì. Pellegrino! Tu come mai? Cosa dicevi una volta, Pellegrino? Perché Giampaolo? Spiegami, no, ma il sud è Pellegrino! Non alleiamoci con i puttanieri, qualcuno ancora lo dice, lo dicevano anche i dirigenti della Lega prima, no, di Berlusconi. Senta, aspetta. Nella tempesta come una madre e un figlio. Allora, a questo punto io non vedo perché bisogna allearsi con uno che fino a ieri odiava i comunisti e dopo faceva le orge con i comunisti. Sfonda il muro di onnipotenza. Qui ha messo insieme tutte e due le cose, le orge e coi comunisti. Cioè, guarda che sono geniali questi qua, eh. Senti come definiscono Berlusconi, senti. Il nostro referendum l'avrebbe firmato, invece ha detto ai suoi di andare da un'altra parte, di andare in vacanza. No, ah, 2006 la 2006. Sì, ero io sì, i seggi, sì. Ti posso dire che i berlusconiani non sono venuti perché sì, li conosco nel mio paese. Sì. È un gran faccia di merda. Servi di Roma fuori. Sempre un linguaggio, come dire, no? Senza dubbi. Allora, andiamo. Giuseppe da Milano. Giuseppe, ciao, vai, ciao. Dimmi. Ciao Giuseppe, ciao. No, dimmi tu, perché io ho chiamato prima quando hai detto a proposito dei taxi, sì, eccetera, se eravamo sicuri tutti quanti che quel lenzuolo fosse stato appeso appunto da un tassista. E ragazzi, però ho visto che mi ha preceduto poi un'altra collega, ha detto la stessa cosa, eccetera. Se avete ancora qualche dubbio, qualche cosa, ormai non è questione di avere dubbi, però non si può pensare che quelli di Uber architettano tutto. No, Giuseppe, al di là di questo qua, dai, di questo fatto qua, eccetera, a proposito di questa questione qua in generale, cioè, siamo arrivati veramente alla farsa più, cioè? più da 4 lire. Cioè che dobbiamo finirla ogni 2x3, Uber di che? Ma qua c'è sotto qualche cosa, qualcuno ha degli interessi che vanno al di là del semplice trasporto delle persone. Ma te, no, però dimmi una cosa, adesso, al di là della questione Uber, secondo te chi ha messo quel cartello dicendo che il capo di Uber è una puttana, che fa le marchette con l'assessore mettendo il suo indirizzo, che abita lì, cioè, chi è stato secondo te? Guarda, io non è stato un tassista secondo te? Secondo me no. Però, secondo te no. Però non ci metterei la mano sul fuoco. Io però sì, dico, o no? Ho capito, ma condanni questa cosa? La condanni o no questa roba? La condanni? Certo che la condanno, ci mancherebbe, sono cose da fare, sono cose che vanno al di fuori, non esiste proprio fare una roba del genere, per carità, non la condanno e come? Tutto il resto che condanno, vabbè, però bisogna insomma rivedere un attimino il tutto, no? Parlare solo di questa cosa qua. Va bene, Rachele Milano, vai, Rachele Milano, no, vai. Dimmi, Rachele. Dimmi, Rachele. Allora, io ho mandato un tweet di vicinanza alla signora Lucini, perché queste cose, senza sì. Lei cosa fa? Tassista. Ah, lei fa la tassista. Allora, io ho mandato un tweet, ovviamente, di vicinanza alla signora Lucini, prima come donna e poi come tassista. Queste cose, chiunque l'abbia fatta, sì, non andava fatta. La cosa strana, e mi associo un attimino alla collega e al collega che ha appena chiamato, è che stranamente queste cose succedono sempre in concomitanza di eventi. E questo è il nostro dubbio. È già la terza volta che vengono fuori lenzuoli, manichini, sì, perché ci sono degli incontri, tacci neri che sputano. Beh, allora qual è il sospetto? Il sospetto è che nella disponibilità della società Uber fare queste cose, per cui per cui lei dice mi scusi, però Rachele, c'è una contraddizione. Lei dice io do solidarietà alla Lucini, che è il capo di Uber, che ripeto, come donna però dice se lo sono fatti da solo. Io penso che non poteva essere stato fatto da tassisti, e le spiego anche il perché. No, ma mi spieghi perché, noi scusi. Noi abbiamo fra 3 giorni un incontro con l'autorità dei trasporti, e una categoria non si può far male in questo modo, non si può fare un autogol in questo modo. Va bene, ho capito. Ma una categoria, ho capito perfettamente. Grazie, Rachele. Riccardo, provincia di Chieti. Non c'è. Fabio da Novara, vai Fabio. Pronto? Dimmi Fabio, vai. Sì, ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Ma io non sono quasi mai d'accordo con quello che tu dici, ma questa volta concordo pienamente per quanto riguarda il discorso della prostituzione. Io mi meraviglio che il prefetto di Roma possa parlare di favoreggiamento della prostituzione nel caso di voler spostare la prostituzione. No, ma io mi stupisco che lo faccia il Partito Democratico. Cioè, il Partito Democratico, per questione di lotte interne, dicono che la prostituzione non va regolarizzata, ma va in sostanza, non tutti, del Partito Democratico, ovviamente. Non va regolarizzata, ma va contrastata, che non vuol dire un cazzo. Come io sono un elettore del Partito Democratico, mi fa incazzare questo finto perbenismo, per non parlare poi delle... Ma portassero avanti i disegni di legge sulla regolarizzazione della prostituzione, se non sanno che fare, appoggino quel tizio là del comune, del nono municipio di Roma, che ha un'idea in testa, che è quella di spostare la prostituzione dalle abitazioni. Ma facessero qualcosa di concreto, non chiacchiere, non chiacchiere, non organizzazioni, non solidarietà, non puttanate. Come assurde le cazzate che ha detto Adinolfi l'altra sera, perché sono veramente allucinanti. Ma a me la cosa che mi fa più incazzare di tutte è veramente la contraddizione di questo Stato perbenista. Perché da un lato parliamo di favoreggiamento della prostituzione per spostare e regolarizzare una cosa che secondo me sarebbe logica, quella di legalizzarla come in tutti i paesi europei. Però poi nessuno parla del gioco d'azzardo, che è una vergogna che lo Stato permetta il favoreggiamento del gioco d'azzardo e il favoreggiamento dello strozzinaggio. Gente che si rovina e va degli strozzini perché non sa più come andare avanti. Allora questo vorrei dire al prefetto: questo è il solito Stato che si comporta con due pesi e due misure a seconda di quella che è la propria convenienza, e questo c'è da vergognarsi, perché mi devono spiegare. È un po' lo stesso discorso della cannabis, le sigarette sì, perché quelle invece fanno bene, no? Che provocano il cancro, eccetera. No, ma tu hai perfettamente ragione. Ciao Fabio, ciao. Massimiliano, provincia di Parma. Buonasera. Vai, dimmi. Volevo intervenire in merito alla chiamata di quel Marco che parlava del discorso degli zingari. Sì. Allora? Di questo sono abbastanza scandalizzato e allibito. E mi dispiace sentire che ci sono persone che parlano ancora in questo modo. Vabbè, è chiaro. Dunque... E sono assolutamente d'accordo. Io ritengo che il problema sia lo Stato italiano, che permette ancora comunque a queste persone di venire e di sfruttare con soldi ovviamente dei contribuenti il fatto di dover passare luce, acqua, gas e tutto quanto. No, ma non ho capito bene, Massimiliano, tu sei scandalizzato per l'intervento di prima dell'ascoltatore, lo posso capire, che ha detto che i Roma vanno praticamente non vanno nemmeno fatti nascere, poi? No, questa è una cosa assurda. No, quello che dico è che in realtà la gente continua a pensare nei confronti di queste persone che possono essere retrograde per il fatto che sono ancora dei nomi nel 2015, ma per il resto ritengo che la colpa sia assolutamente da dedicare allo Stato italiano, che ancora permette e non regolamenta il fatto di queste persone che arrivano e poi sfruttano spazi, ambienti e risorse che ovviamente a loro non sono mai a carico. Quindi questo porta all'esasperazione di persone che poi ovviamente ragionano in malo modo. Vabbè. E quindi poi rispondono con la violenza. Vabbè, Massimiliano, indignato della proposta. Vabbè, ciao. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, io lo considero uno dei più grandi comici italiani in questo momento. Bene. È un ragazzo molto giovane. Un ragazzo, non è più un ragazzo. Come lo vuoi chiamare? Un ragazzo. No. Soprattutto a me piace perché è sfrontato, perché usa anche un linguaggio che non dico che è simile al nostro, perché poi è tutto. No. Lui fa il comico, noi no. Ogni tanto magari siamo comici pure noi, involontariamente. Noi siamo grotteschi alle volte. Sì, anche patetici spesso, sì. No? Anche patetici. Sì, questo più tu. No. Tutti e due. Saverio Raimondo. Buonasera, io sono grottesco, patetico, ma purtroppo non più ragazzo perché ho 31 anni. Quindi 31 anni, magari sei pure. Magari sei pure frocio, sai? È così, mettici pure questo. Sarei eterosessuale, tendenzialmente. Però. Dicono di no in giro, no? Dicono di no. Senti una cosa, no, Saverio, oggi c'è stato un piccolo giallo perché tu fai il dopo festival di Sanremo, che mi pare stia riscuotendo un po' di successo sul web, sul sito web della Rai, no? Sì. Ma è vero che hanno cancellato la puntata dei giorni scorsi? Alcuni pezzi delle puntate dei giorni scorsi? Allora è successo che dal sito della Rai, dove ovviamente erano visibili le prime due puntate dopo Festival di Sanremo, per circa 3 ore queste puntate non c'erano più. Noi l'abbiamo saputo, noi del dopo Festival l'abbiamo saputo direttamente dal web, che se n'è accorto, e quindi molte persone hanno cominciato a twittare, molti blog hanno cominciato a scrivere di questa sparizione. Poi circa un'oretta fa o poco meno c'è stato comunicato che c'era stato un errore tecnico e quindi le puntate sono tornate online integrali. Non c'è allora, mi sono rimesso a rivederle completamente, però mi sembra dalle durate, dall'inizio, dalla fine che ma in quali sono le battute più, come dire, contestate, più le ritenute battute, allora, poco da servizio pubblico? Allora, a me personalmente non è stato contestato nulla, il mio telefono non ha squillato e nessuno mi ha... Cioè non ti ha chiamato il signor Leone o il direttore generale della RAI per dire basta Raimondo, sei no, troppo... Non solo. Oggi in conferenza stampa il direttore Leone ha detto che l'esperimento, il dopo festa di quest'anno è riuscito perché sta avendo un grande successo e quindi che si potrebbe pensare il prossimo anno a un suo upgrade televisivo. Ecco perché ci aveva molto sorpreso scoprire che le puntate erano sparite. Vabbè, ma secondo te erano sparite perché qualcuno s'era, perché qualche giornale cattolico, qualcuno della Curia si era incazzato per alcune tue battute o no? Diciamo la verità. Sì, io dico questo: se tutti noi pagassimo il canone, il sito della RAI sarebbe migliore e funzionerebbe meglio, no? Ma che vuol dire? Come che vuol dire? No, è forte. Scusa, è un errore tecnico. È una risposta paragura, da giustamente. Non mi sarei diventato pure... Una risposta da RAI. Ma ha ragione. Allora, però, io di cognome faccio Raimondo, quindi sono proprio aziendalista all'anagrafe. Vabbè, Saverio, bravo, però diciamo la verità, le battute incriminate riguardavano soprattutto la famiglia numerosa, com'è che si chiamava la famiglia? La famosa famiglia Anania. Tu hai fatto due tre freddure fenomenali, ripetici un po', tanto qui si può dire tutto, non è un problema. Allora, essendo io in realtà un mago della promozione, in realtà se le volete sentire dovete andarvi a prendere... Vabbè, il sito della RAI, Vezzetti, poi... della RAI, la prima puntata del dopo festa, e andarvele a sentire. Ma questo lo faremo, però... Okay. Vi do un assaggio. Quello che ho detto è che appunto la famiglia Anania, che siccome è stata molto celebrata, no, sul palco dell'Ari, e per carità, legittimo, ci mancherebbe, noi del dopo festival, che siamo in contraltare, a maggior ragione che siamo sul web, quindi siamo in contraltare particolarmente irriverente, allora ci siamo permessi di smontare il mito della famiglia Anania. E quindi la cosa a cui più ci tengo, perché era il vero messaggio, è che bellissima la famiglia Anania, ma ricordiamoci che il problema del pianeta Terra è il sovraffollamento del pianeta. Quindi in realtà la famiglia Anania è una piaga terrestre, perché a causa di gente come la famiglia Anania le risorse del pianeta si stanno esaurendo, l'inquinamento è ai livelli storici e massimi, e quindi la famiglia Anania sta uccidendo il pianeta. E tu hai detto questa è la verità, è una verità storica. Allora, primo questo, secondo, l'aborto, sull'aborto, mi sa che si sono un po' scordati dell'aborto, cioè che c'è una legge sull'aborto. Ma in realtà si è creato un po' questo cortocircuito, io ovviamente ho ricordato, e mi sembra che sia anche questa una verità storica, che in Italia c'è stato un referendum sull'aborto. Loro però mi sa che sono dimenticato però, Ma loro hanno fatto una scelta, ci mancherebbe, semplicemente noi da contraltare abbiamo voluto ricordare che oltre a chi sceglie di fare 16 figli c'è anche chi sceglie di non averne neanche uno. Poi quella cosa anche di fare una scelta peraltro molto difficile per certi aspetti, come anche l'aborto, che comunque ricordiamo essere una cosa legale in Italia. È legale, anche se c'è qualcuno ancora che sostiene, per esempio un deputato è molto cattolico, ex Scelta Civica, da noi l'altro giorno, che addirittura l'aborto va cancellato ed è una specie di crimine, e chi compie l'aborto uccide degli esseri umani, e dunque sostanzialmente non dico un assassino ma un criminale. Questo ha sostenuto un deputato della Repubblica Italiana, ma insomma vabbè, c'è di tutto, come sai. Ma questa storia del sesso anale, del sesso, com'è? Come la leghi alla famiglia Anania? Il sesso anale? Quella era bella, ma guarda, in realtà La RAI è bella, questo è il punto, che detta alla RAI, il punto è che tu con queste battute, diciamo la verità Saverio, non andrai mai in prima serata a Sanremo. Io non credo mai che tu l'anno prossimo, se farai la prima serata, potrai dire, come hai detto, è evidente che... Ma dilla tu, è evidente che a casa Anania... evidente che a casa Anania non hanno mai avuto un rapporto anale, no? Cioè non praticano il sesso anale, visto che appunto... figliano certo, a livello procreativo, ma anche quello orale forse non conoscono, oltre che quello anale. Questo lo stai dicendo tu, io non l'ho detto, io questo non l'ho tu hai detto. Detto è evidente che a casa Anania non si pratica sesso anale. Allora, i signori di Avvenire, i signori del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, hanno detto che sei aggressivo, di una cosa, di un'aggressività enorme. Che cosa deve dire? Allora io posso, io ovviamente risponde ai signori di Avvenire, dai. Ma no, premesso che il parere è legittimo e gli do pure ragione, c'hanno ragione, però faccio anche notare che sono alto poco più di un metro, ho la voce da da deficiente, ho un fisico molto snello, quindi la mia aggressività è assolutamente come dire disarmata e disarmante, quindi non posso fare male a nessuno, mi limito a fare delle battute che possono ovviamente anche non piacere, come le battute di Pintus, come le battute di Tiani che erano sul palco dell'Ariston e non sono piaciuti, per esempio, al contrario mio, che comunque mio amico ti dà ragione, verissimo, chi fa più di un figlio è uno stronzo, lo penso da sempre. Ognuno pensa, ma ognuno infatti è molto libero. Ma c'hai degli libero, amici un po' strani. Siamo in un paese libero, ragazzi. Senti una cosa, ma a te è piaciuto Siani? Dai, rispondimi seriamente però. Non è il mio genere di comico, non ma io si sa, ho gusti molto esterofili in fatto di comicità. A me piacciono i comici americani, i comici inglesi, quindi né Siani né Pintus sono dei due miei riferimenti comici. Poi ci sono molte persone a cui in Italia piacciono. Insomma, l'abbiamo visto, non hanno riscosso particolare successo le loro performance all'Ariston. Immagino anche che... Nel pubblico in realtà sì, perché gli ascolti ci sono stati... magari tra voi, è una comicità. Io riporto, facendo appunto dopo pezzo sul web, quello che è un po' l'esito appunto della rete, a parte che Siani c'è stata anche la questione della GAF che quindi l'ha portato. Ecco, ma quella roba lì del ciccione è una roba per cui, cioè, fuori luogo quella... Posso essere sincero, a me quella battuta non è piaciuta da un punto di vista tecnico, perché è semplicemente la classica battuta da cabaret. Esatto. Cioè, non ho nulla contro le battute scorrette, ovviamente. Cioè, tu dici, quando ha detto zio, non c'entri in quella sedia lì, non c'entri, è una battuta da cabaret, cioè è una battuta di basso livello, dici tu. Di basso livello, diciamo che l'abbiamo sentita tante volte in tanti cabaret, a Napoli, a Roma. Alle osterie, dai. E quella su Brunetta invece, del seggiolino? Sai che non l'ho sentita. Comunque, Brunetta ha dato a Siani del razzista e dell'ignorante, Se sentisse te. Esatto, appuntamento a Brunetta al dopo festival sul web, che comunque è quello che vorrei. Non fai marchetta web da Rai, che già abbiamo fatto abbastanza. No, perché a noi non ce ne frega niente poi, Ma siete una bella coppia comica, Cruciani, non devi dire cazzate. Allora, lasciamo Saverio Raimondo. Saverio, che è uno dei conduttori del dopo festival Rai sul web. Allora, caro Saverio, quando si parla di Salvini, che è stato uno delle altre persone messe un po' in mezzo da Siani sul palco, con quella battuta su Carlo Conti nero e lui napoletano, Salvini, a che pensi quando vedi Salvini? Ecco, quando guardi Salvini, a cosa pensi? Ma sono veramente molto sincero, comincio a guardare sempre meno i politici italiani e a non pensare più molto di loro, cioè mi sembrano abbastanza ininfluenti rispetto alla storia, proprio a quello che ci succede, e trovo ormai, dice, all'attività parlamentare una cosa molto noiosa e sterile, preferisco appunto fare battute per esempio sulla famiglia Nania o altre. Cioè, no, questo l'ho capito, per cui per esempio la cosa di Siani, diciamo la verità, ti ha annoiato in maniera pazzesca. Sì, perché non è il mio genere, intendiamo, c'è tutto legittimo e capisco che piaccia, ma proprio non è il mio genere. Allora, ti riferisco due cose. Il web è eccezionale da questo punto di vista. Se praticavano sesso anale era la famiglia Analia, stupendo. Va bene, grande classico. Anfame, adesso è scontato pure questo. Dai, non è scontato questo. No, è un po' di parole, no, ci Calambur, sta. Dai, su. E un altro ha detto, invece, a casa Anania non va di moda la sodomia. Beh, dai. Questo è un poeta, ha trovato anche la rima, lo vedi? Beh, uno era Anfame e l'altro è Mazzucchi, vabbè. Vedi, una cosa che ci tengo, perché fa proprio parte della mia filosofia. Io non vado preso sul serio, le mie battute, anche quando... No, ma infatti questo è importante. Questo è importante. Io non vado preso sul serio. Per cui signori cattolici, signori di Avvenire, signori della Conferenza Episcopale Italiana... Non dico sul serio, sono un buffone, non dico sul serio, mai. Alcune cose le penserai, naturalmente. Non è detto. Potresti essere pure un conservatore pazzesco vicino al cardinale Bertone. Perché no? Ciao Saverio, buon lavoro. Ciao. Buon lavoro a voi. Ciao. Allora, Nino da Roma, vai Nino. Eccomi. Allora, premesso che sono d'accordo con la collega che ha detto prima che se la sono scritta da soli. Cioè, quelli di Uber se la sono scritta da soli. Tranquillamente, perché fatalità, come ha detto lei. Cioè, tu sei un tassista pure tu? Come no? Io sono solo 36 anni che faccio chilometri per Roma, capito? Come si chiama il taxi tuo? Il mio si chiama Napoli, Napoli 1. Napoli 1, bene, allora che vuoi dire? Che quelli se la sono fatta da soli? Quelli di Uber si sono fatti, sono scritti gli insulti nei confronti? Esattamente, perché come spariscono un po' che cerchiamo da mettere e da legalizzare un po' queste cose, perché a me mi devono dire perché io per ogni corsa devo fare con gli ispettivi e se incazzo meno di quello che è sul mio... coso annuale, come le chiama? Devo pagare uguale di più le tasse. A me mi spiegassero i privati che magari se fanno qui 30-40 euro al giorno, ma se lo mettono sul reddito. Vabbè, Nino, però sì, vabbè, sulle tasse pure ci sarebbe da discutere su come le pagate voi, però Nino, c'è tanto da discutere. Però aspetta un attimo, voglio capire una cosa. Questa signora dell'illegalità che fanno legalizzare. Sanno tutti che pagano le cose, le tangenti per più alle corse per fuori Roma. Va bene, Nino, stai tranquillo però, fermo un attimo. Ti voglio chiedere una cosa, tu come consideri sta signora di Uber, questa signora Nucini, come la consideri? Una signora che è spalleggiata da una piccola sua compagnia che c'ha solo centinaia di miliardi, una potenza talmente alta che ogni tanto deve entrare in evidenza perché deve piare il mercato, deve piare... Ma è giusto insultarla? È giusto mettere i cartelli là? No, tu dici che non l'avete fatto voi. Sicuramente no, perché è un budget pubblicitario che si deve fare sta storia, mi capito? Io non ho capito una cosa, perché siete così sicuri? Perché siete così sicuri che non siete stati voi tassisti a mettere quel cartello lì sotto perché casa della signora? Perché i tassisti vengono danneggiati da questa cosa qui, tutte però. Tutte le volte che cerchiamo da legalizzare sta storia, che ci danno l'appuntamento per far rispettare le leggi in Italia, fatalità, succede qualcosa, o il ministro c'ha da fare, o te rimandano quello o quell'altro, e qui intanto il mercato, noi stiamo a fare la fame. Ciao Nino, ho capito perfettamente. Ciao, ho capito. Vabbè, adesso non partiamo con i noleggi da fuori Roma, sennò apriamo un capitolo infinito. Dai, Giuseppe da Bologna, vai, Giuseppe. Pronto? Sì, vai, ciao, vai. Buonasera. Niente, io volevo replicare quel ragazzo di prima che parlava dei rom, l'ospedale, il ginecologo, eccetera. Bravo, bravo. Io ho la soluzione per... Qual è la soluzione? Dimmi. Bravo, gli hai detto bravo, manco è intervenuto. Vai. No, temo quel che dice, bravo, era ironico, diciamo. Dimmi. Temo. Posso? Sì, dimmi, vai, parla. Allora, quando nascono i figli, si dice, attenzione, i vostri figli li prendiamo e li mettiamo in un istituto. Bene. Nel giro di 2 o 3 generazioni li educhiamo noi, nel giro di 2 o 3 generazioni è finita la mafia, è finita la storia dei Tu dici che bisognerebbe strappare... Li educhiamo come vogliamo noi, come la società Cioè tu stai dicendo che bisognerebbe strappare i figli ai rom e metterli in un istituto? Strappare, come chiama? No, strappare. Se no come? Scusa, non è che uno nasce un figlio. No, gli si dice, tu fai figli, attenzione, tu sei a rischio, perché sei un mafioso, tuo figlio è a rischio che diventi mafioso. E allora? Lui, e allora? Li prendiamo e li mettiamo in un istituto. È quello che ho detto io, li strappiamo ai genitori e li mettiamo in un istituto. Mi pare strappare è una parola brutta. Strappare per legge. Mi pare che a Totò Riina siano state strappate. Ah, per legge, appunto. Cioè, tu dici non strappare perché bisogna fare una legge. Ancora mi pare che a Riina siano stati strappati i figli. Comunque siamo nel campo della follia. Nel giro di 10-20 anni non esiste più la mafia, non esiste più il problema rom. Perché sono educati da persone. Non è così semplice, caro Giuseppe. Non è così semplice. Non è semplice, però è l'unica. Diciamo la verità, Giuseppe, tu i rom li vorresti vedere scomparire, questa è la realtà, o sbaglio? No. E cosa allora? Nascono sono allora si ricordi che ricordati che dove tu sai? Dimmi Giuseppe, che i figli crescono a secondo dove crescono bene o male. E allora? Allora il problema se nasce in una famiglia che è mafiosa sarà il mafioso. Non è detto così. Comunque non è esattamente così. Vuoi non strappare è che i figli ai rom per metterli in un istituto? Ma questo hai detto, Giuseppe, togliere i figli alle famiglie, dai, su. No, non sono famiglie normali quelle, sono mafiosi. Ma non è che tutti, quelli allora pure a Totò Riina vorresti strappare il figlio, vorresti togliere il figlio. Ma certo, quando è piccolo sì. Quando scusa, è piccolo toglie i figli ai mafiosi piccoli. Ma va bene, ma per carità, ma è importante sapere quello che dice. È nostro cruciale, il nostro interesse. Sì, no? Sì. Ciao, ciao, ciao Giuseppe, ciao, ciao. Ciao. Allora, nei giorni scorsi, vediamo un po' se lo troviamo per telefono, Briatore, Flavio Briatore, a proposito della lista Falciani, eccetera, eccetera, lui è stato messo in mezzo per alcuni conti svizzera, ha detto, beh, dovrebbero darmi una medaglia come imprenditore, eccetera, eccetera, non risiede in Italia da quasi 30 anni, eccetera, eccetera. Vediamo un po' se lo becchiamo, perché voglio proprio beccarlo, credo che sia in Inghilterra, ecco, vediamo un po'. Oh. Flavio? Sì? Giuseppe Cruciani, ciao, ti disturbo? No, cioè, ti volevo chiederti una cosa, ma io trovo assurda questa cosa che tutti vengano considerati evasori fiscali quelli che sono in questa lista Falciani. Cioè, adesso hanno messo in mezzo pure altre persone, pure un politico italiano, perché il padre aveva un conto chiuso nel 2007, nel 2008. Pazzesco. Cioè, tu come lo consideri sto Falciani? Che personaggio è secondo te? Ma sai, so che uno che ha rubato dei dati a una banca è un truffatore. Cioè, è uno che se tu lavori in una banca e rubi i dati della banca rubi i tabulati della banca e li pubblici, sei un truffatore, io lo considero questo. Ecco, ma quelli che invece prendono questi dati e poi sopra e li pubblicano invece? È legittimo? Questa roba qui è partita nel 2010, non è una notizia questa, no? Questo qui è un riciclo giornalistico, se vuoi, per cui tutta questa roba qui, poi i giudici hanno avuto in mano questa lista nel 2010, hanno sicuramente indagato qualcuno, ma è una roba finita. Io sono, oltretutto, sono mai stato né chiamato né indagato nel modo più assoluto. Senti, ma tu ti senti un po' ancora, ti senti sputtanato da questa cosa qua, perché dicono che hai conti all'estero? Ormai chi ha conti all'estero è automaticamente... No, ma io ho i conti all'estero perché io vivo all'estero, la mia famiglia vive all'estero, io vivo all'estero da 20 anni. Quanti conti hai in Svizzera? Non lo so. 7, 8, si è parlato di 70 mila. No, non c'entra niente quanti conti ho. I conti che ho in Svizzera sono completamente trasparenti, essendo residente all'estero non c'è assolutamente nessun problema. Tu dici, indagassero pure su di me, io sono qui a disposizione con tutti i dati. Non hanno indagato su di me, sapevano dei miei conti, ne sono indagato su di me. Io vivo all'estero, l'evasore è quello che produce reddito in Italia e lo porta fuori. Io in Italia non c'ho assolutamente niente da produrre reddito. La cosa che mi dispiace è che mi hanno affiancato della gente che ha avuto dei problemi col fisco italiano, tutto lì, per il resto non succede assolutamente niente. C'è un ex giudice in Italia che ha litigato con la Santanchè in televisione, con la tua amica Santanchè, che ha detto... Non c'è. No, che ha detto un tale D'Ambroso, che ha detto che tu sei un latitante, addirittura un periodo di latitanza, un deputato italiano. 35 anni fa, no? Sì, no, ma era per dirti quello che succede. Ma lì c'è anche il diritto dell'oblio. Senti una cosa, ma come tutta questa operazione, no? La pubblicazione di un libro adesso con Falciani, come la consideri tu? Cioè, dall'esterno? Cioè, i nomi che arrivano, Valentino, il tuo, sui giornali? No, vedi, la differenza è questa: io non voglio essere affiancato a qualcuno che ha avuto procedimenti da parte della giustizia italiana o da fisco. Questo non accetto, cioè io non accetto di essere catalogato con altri che hanno avuto problemi. Io problemi col fisco non ho avuti mai, oggi io zero. Il fatto che io non vivo in Italia da 25 anni, la mia famiglia non vive in Italia da 25 anni, non produco nessun reddito in Italia, non c'ho niente, io in Italia non c'ho niente, c'ho di qualche società, che le società pagano le tasse che devono pagare per quello che producono in Italia, oltretutto sono anche socio di minoranza, per cui non sono stato tirato dentro, perché in Italia uno che ce la fa deve sempre essere, se vuoi, anche sputtanato, perché è solo quello, una cattiveria e basta. Cioè, tu dici, chi ha successo viene messo in mezzo e sputtanato. Non è che ha successo, cioè io in questa cosa qui adesso partiranno le querele a tutti quanti, perché... A chi quereli, assolutamente, scusa? Tutti dalla Z. Ma tutti che vuol dire? Giornali? Giornali, giornalisti, imitatori, tutti quanti. Come imitatori? Che è successo? Ti hanno fatto uno scherzo? No, ma dico tutti. Ah, imitatori, ma pure questo Falciani, quereli? No, io con Falciani non c'entra niente, io non con Falciani non c'è nessun problema. Però era un furfante che ha fatto un furto in una banca e l'ha pubblicata, per cui credo che l'ha fatta a scopo di lucro, non lo so. Va bene, ciao, ciao Flavio, ciao, ciao, ciao. che cosa mi è venuto in mente, caro Davide? Mi sono scordato di chiederglielo perché ero concentrato su altro. Che in realtà lui vuole querelare Crozza. Cioè, vuole querelare Crozza. Io quando ha parlato di imitatore, mi è venuto in mente solo lo scherzo che abbiamo, gli scherzi che facciamo no, noi. No, ma non credo. Sì, sai. Sì, come no, per forza. Ma assolutamente, cioè, assolutamente. Lui vuole querelare tutti, cioè giornali, giornalisti. Vabbè, quello... E imitatori. Ma cioè, non mi è che sembra imitatore. Uno che va. Ma sì, perché lui di perché, i comici, perché adesso dopo faremo sentire l'imitazione di Crozza fatta di Briatore. È evidente, quello si è incazzato per il fatto che è stato considerato anche lui da un imitatore un evasore fiscale. Hai sentito? È incazzato come una bestia, vuole querelare sì, tutti. Sì, può essere. No, ma sicuro, imitatori, ma chiaramente si riferiva a Crozza. È evidente. Vuole querelare Crozza, questo è il punto. Briatore vuole quella Crozza, sentiamo l'imitazione di Crozza. Buonasera Briatore. Buonasera. Senta, mi scusi, ma come mai lei portava i soldi proprio in quella banca di Ginevra, in quella filiale lì? Avevano delle agendine da sogno. C'avevano queste agendine di rajo rosa con la cornice in radica, che quando le vedevi dicevi questa è la banca del sogno, questa è la banca dove devo stare un imprenditore a tonno. E quello il motivo, le agendine, sicuro? No, perché... In realtà c'era un altro motivo. Ah, ecco. I tasti del bancomat riscaldati. No, ma non credo. Lei non ha idea, se è stato a Ginevra, che sì. C'è quel freddo che ti taglia la faccia. Sì, sì, no. Che quando vai a ritirare i tuoi miseri 3 milioni di euro, ecco, tu senti sì. Quella sensazione di tepore nel polpastrello. Non mi pare che possa querelare Crozza per una cosa del genere. Adesso magari c'è anche altro dell'imitazione di Briatore. Che portava i soldi in Svizzera. Vabbè, se non li portava materialmente, in qualche modo ci sono arrivati in Svizzera. A parte che a noi ha detto che manco si ricordava i conti, il numero dei conti. O che... avrà delle società. Ma perché non è lui che materialmente. Ma non è lui che materialmente no, apre questi conti. Può essere che abbia delle società lui in Svizzera. Non vi sopporto, è un programma brutto. Secondo la Chiesa Evangelica Pentecostale di Renascimento, Cile, ti giuro, gli uomini che cucinano diventano gay. L'omosessualità è una malattia che gli uomini possono sviluppare nel dedicarsi a pratiche che prima erano considerate di esclusiva responsabilità delle donne. Tu cucini? Ma no, poco, pochissimo, ma non c'entra un cazzo. Dai, questa è come Sberna, è come Sberna che dice che uno che è ricco è gay e quelli che sono poveri non possono essere gay. È cracco. Come si chiama l'altro cuoco, lì famosissimo? E Bastianic? E Bissani? Ma dai! Tipi da Zanzara, vai! Tipi da Zanzara. Nei giorni scorsi, caro Parenzo, abbiamo incrociato diversi personaggi che si autonominano. Com'è che si nominano quelli del sud là? Neo-borbonici. Posso dire una cosa a questi neo-borbonici prima di lanciare il tipo da Zanzara? Fiumi il genocidio del sud non esiste. I neo-borbonici non esistono, sono quattro gatti che la devono smettere di rompere i coglioni. Marco da Lecce, dai. Ciao Cruciani, ben trovato. Dimmi. Guarda, io voglio parlare con il signore del studio, lo dico con rispetto ebreo, perché voglio intraprendere 30 secondi di discussione. Il signore Parenzo si offende ogni qualvolta qualcuno faccia battute minime sugli ebrei e sul genocidio. Dipende. Vorrei sapere da lui cosa ne pensa del genocidio dei meridionali. Ma quale genocidio? Voi sempre ignorate, ma sempre sì, offendete. Ma sì, è uno dei neoborbonici questo matto, dai. Mi dica come considera il genocidio dei meridionali. C'è il genocidio dei Khmer Rossi, il genocidio degli armeni, il genocidio degli ebrei. Non esiste il genocidio dei meridionali, chiaro? Non esiste il genocidio dei meridionali. Non esiste. vado a Ponte Landolfo. Ma quale ponte? Ma che ne so, vado, ma quale allora, genocidio del Meridione? C'è stato qualche cidio durante. C'è stato qualche cidio. C'è una differenza tra. Il 1860 e il 1870, 10 anni, un milione di vittime. Ma quale milione di vittime? Ma quale genocidio? È una parola precisa, è una parola precisa, non è cidio. Borbonici. Genocidio del Meridione. Ragazzi, ma è una cosa. Un genocidio. Io divento pazzo, guarda, devo chiudere, starei con lei a combattere su questa cazzata. Tipi da Zanzara. Marco da Lecce, ti rendi conto o no? Vai, Albino Treviso. Albino. Buonasera, ciao. Dimmi. Vorrei solamente dire che il Zancan, il giornaliere, a mio parere mentalmente è un poveretto. Cioè in che senso? Zancan è un poveretto, sì, il gioielliere, quello che ha subito la rapina, sì, eccetera. Perché? Perché uno non può venire in un momento definito da lui drammatico, in una trasmissione diretta innanzitutto, e a dire che si sente più protetto da una parte più politica piuttosto che da un'altra. Vabbè. Vabbè, ho capito, ha detto così, mica è colpa mia. Sì, sì, no, non sto a far colpa, però sicuramente è una dimostrazione che certe volte il buon toscano in qualche ragione ce l'hanno. Cioè? Che sono tutti ubriachi, veneti, non è... Sicuramente. E dopodiché ritengo che non sia proprio così trasparente la posizione nemmeno del benzinaio. Perché? Perché chiaramente questo si mette in proprio a sparare in una piazza dove poteva benissimo colpire qualsiasi persona, non dobbiamo dimenticare questo. Vabbè, ho capito, però ha reagito a una sparatoria. Ma il fatto è che lo aspettava lui, non è... Ho capito, ma ho capito, che c'entra che ruolo ricopre? Ha visto una situazione di pericolo, ha visto della gente in pericolo. Ma ho capito, ha visto della gente in pericolo e si è avvicinato al porto d'armi in quanto benzinaio, pare che fosse anche un cacciatore. Ma tutto quello devo, appunto per questo non dovrebbe mai avere un cacciatore. Cioè, secondo lei comunque non si doveva avvicinare. Ma nemmeno sparare, perché poteva colpire chiunque Poteva colpire qualsiasi persona in passaggio, che capacità ha questo di capire, di video? Lui stesso ha ammesso che si è sentito perso, non riesce nemmeno quasi a ricordare quello che è successo. Cioè, secondo lei in fondo si è anche pentito? Molto probabilmente sì, perché è stato un gesto in consulto sicuramente. Va bene, grazie. Fernando, Como. Sì, anch'io vorrei intervenire su questo argomento. Io sono veramente contento di abitare in un paese dove vengono instaurati dei processi per capire se veramente l'uso della forza è stato sproporzionato. Cioè, io non vorrei arrivare, questo è il punto, a un stato americano dove prima ti armo per difenderti, poi ti sparo, prima chiedo, e poi i morti si contano a migliaia perché c'è questo stato un incidente, l'altro ha sparato, uno che l'è entrato a casa magari è sbagliato, no, cioè, però Fernando, ho capito, ha ragione ma chi ha ragione cosa? Il punto fondamentale è che questo qua aveva un regolare porto d'armi, non è che era uno che non aveva, porto d'armi, ha visto una situazione, ma certo, ma nessuno dice che non ci deve essere il giudice, quelli che basta, dicono, questo dice l'ascoltatore, quelli che dicono non nessuna inchiesta, nessuna cosa, no, il punto fondamentale è che spesso le inchieste, la gente poi resta bloccata nella propria vita, nella propria attività per anni prima che venga accertata la verità definitiva, qui la dinamica è abbastanza chiara, cioè c'è una rapina in corso, si è avvicinato un tizio, un benzinaio. Lui ti sta spiegando che a difesa gli hanno sparato addosso. I processi servono a questo. Va bene, d'accordo, quindi accerteremo le cose, ma anche se questo si fosse avvicinato e ha visto una situazione di pericolo e ha sparato, per me va bene lo stesso, capito? Se questo è il porto d'armi e vede una situazione di pericolo, i rapinatori con le pistole in mano vanno fermati per non provocare danni, anche con le pistole. Certo, è difficile dirlo, ma io... Lei forse ha ragione, ma io mi sento più sicuro se a proteggermi è un poliziotto. Vabbè, ma se i poliziotti non ci stanno là sul momento, che deve fare questo qua? Doveva lasciar correre? No, magari sì. Forse sì, perché vittime qua ci sono: il benzinaio, il gioielliere e quel poveretto che è morto. Cioè, qua poveretto che è morto, poveretto che è morto è un criminale che ha fatto una rapina, pistola in pugno, pistola in pugno, pistola in pugno. Ma per quello abbiamo un sistema instaurato. Però chi fa una rapina, io ripeto per l'ennesima volta, chi fa una rapina con la pistola in pugno, con una pistola in mano, si può tranquillamente aspettare che ci sia qualcuno che intervenga, anche un cittadino, perché non è importante per un criminale che sia la polizia o sia qualcun altro, no? Che gli spari addosso, questo è il punto. Chi fa una rapina, dopodiché tutti noi preferiamo che sia, ma tutti quanti noi preferiamo che sia la polizia a farlo. Dopodiché chi fa una rapina con la pistola in mano si può aspettare questo, lasciamo perdere le leggi, eccetera. Per cui questo qua non è una vittima, è morto. se tu fai, come ha detto Feltri, il rapinatore con la pistola, non il rapinatore nel supermercato che ruba una mela, il rapinatore con la pistola, puoi aspettarti di morire. È un incidente sul lavoro, è una cosa molto semplice, incidente sul lavoro. Poi sì, ci saranno i processi, le cose. Ma su questo lei ha ragione, cioè uno che fa il rapinatore si aspetta quello come quello. Allora. Allora il punto è, secondo me, in questa situazione speciale e in quella che si troveranno sicuramente tanti altri gioiellieri benzinari, secondo me il regolare porto di armi per difendersi in una situazione così è giusto averlo, è giusto difendersi. Non sta a me giudicare o a nessuno giudicare se poi è l'uso sproporzionato della forza. Ho capito. Ma quello poi... è scontato, Fernando, adesso qui non siamo a porta a porta, è normale che ci sarà un processo. Su, certo, quelli che non vogliono nemmeno il processo, va bene, se arrendessero e cambiassero le leggi, però. Se uno spara a qualcun altro è normale che ci sia un magistrato che se ne occupa. Di quelli, soprattutto politici, che mettono il loro cappello del consenso. I politici parlano anche di sicurezza, però. I politici parlano anche di sicurezza. Gli ultras di una parte in una vicenda di cronaca, questa è la questione. Andrea da Milano, grazie, Andrea. Sì, buonasera, sono un tassista di Milano. Volevo paragonare Uber agli zingari, perché arriva in un territorio, lo spolpa, passandoci sopra le regole, tutto quanto, e quando succede qualcosa che qualcuno attacca fa la vittima. Dentro più nello specifico, Uber si vanta tanto di essere dinamico, democratico, però non dice mai la gente che applica una cosa che si chiama surge price, ossia la variazione sistematica del prezzo in base alla richiesta, alla reale richiesta. Che vuol dire? Se lei non trova un taxi normale, aspetta e si lamenta. Uber le manda un buono di 10-15 euro dicendo ci dispiace che lei non abbia trovato il taxi, la prossima volta sconteremo questa cifra. Ma come funziona? Per mandarti questo buono, un'altra persona paga 4 volte la corsa che tu pagheresti normalmente. Questa è democrazia? Io il tassametro ce l'ho piombato e non mi lamento e pago le tasse. Invece loro che fanno? Mi piace un mondo così, a me fa schifo un mondo così. No, ma non ho capito, loro che cosa fanno di illegale da questo punto di vista? Voglio capire. Applicano una variazione incontrollata sul prezzo. Cioè, questo è il mercato. Che vuol dire? Non mi spieghi meglio, che significa variazione incontrollata sul prezzo? Scusa. Allora, se lei prenota una stanza d'albergo oggi a Milano, paga ipotesi 50 euro, durante la fiera del mobile la paga 300 euro, perché se c'è una richiesta maggiore. E allora? La stessa cosa la fanno questi qua di Uber. E come fanno, scusa? Non avendo un tassametro piombato, perché loro hanno un algoritmo su un telefono. Non ho capito, se tu prenoti un Uber nel momento in cui c'è una... No. Esatto, una manifestazione in cui c'è parecchia richiesta, il tuo prezzo non sarà di 10 euro come può essere il mio, ma sarà di 40. Se volete andarvi a informare su quello, ci sono tariffe a New York. Ma l'utente lo sa, però. Ma no, l'utente però lo sa perché ce l'ha sul cellulare. La prima volta mi ha inchiappettato, la seconda volta non lo prende più. Io parlo con la gente che ha preso Uber e non la riprende più una seconda volta. No, voglio dire, a me è capitato di prenderlo a Parigi. Però adesso la questione non è questa, Andrea. La questione non è adesso. Io sono sostanzialmente contrario a ogni genere di protesta che sia la forma di. Ho capito, ma tu hai detto che sono come gli zingari. Hai detto che sono come gli zingari. Non fa la stessa cosa. Non arriva su un territorio, lo spolpano sfregandosi delle regole perché non sono stati implementati in nessun modo. Hanno sdoganato Uber Pop che, nonostante si dica che è illegale, funziona lo stesso. Perché io vado in giro di notte, ci sono davanti alle discoteche. Ho capito, ma chi ha messo quel cartello di insulti nei confronti chiamandola puttana, prostituta? Io penso alla persona intelligente. Il discorso è che parlate bene, parlate male di me, ma bisogna che parliate lo stesso. Questo diceva Oscar. Cioè, sono fatto loro. In America tracciavano i giornalisti che lo so. Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? Di un'azienda che fa queste cose, ci stupiamo che si mettono alla auto a mettere un cartello. Dunque, l'hanno messo loro, secondo te? L'hanno messo loro? Se lo sono messo da soli? Io di sicuro che sento gli umori della piazza, sono sicurissimo che la gente non sia così autolesionista né i tassisti non sono stati. Ma perché dovrebbero farlo? Ma non lo so, motivo? Andrea, perché c'è qualcuno che evidentemente gli sta sul cazzo questa lucina, come diavolo si chiama. Sui coglioni qualcuno, ma nessuno viene a mettere fuori il cartello, ti spacco la testa o... Per intimidire le persone. Ma per intimidire uno fa. Ma questa sono arrivate anche le telefonate, arrivano dei messaggi, capito? Comunque, non è che. Ma tra loro e noi, chi ha il coltello alla parte del manico, secondo lei? Chi va a mangiare con l'assessore? Chi viene invitato agli incontri sull'Expo o altre cose? Le nostre associazioni. Cioè, secondo lei l'assessore a Milano è al servizio di Uber? Io non ho detto questo, io ho detto che loro ci mangiano insieme. Io ho detto che lei ci ha fatto un'università. Vabbè, ma anche i rappresentanti dei taxi vanno a pranzo. In maniera molto marginale e Vabbè, Andrea, dobbiamo chiudere, però una cosa. Do you speak English? Se vuole richiamarmi, ma sono disponibile a spiegare come funziona le cose. Do you speak English? A lot. Yes, of course. No, perché oggi ho una pagina intera di Repubblica che dice che voi non parlate inglese, dunque non siete pronti all'Expo. Io ho una moglie che fa anche la tassista e parla inglese, francese, spagnolo e russo. Dunque ti scrivono un sacco di cazzate, dici tu. No, le generalizzazioni sono sempre sbagliate, ma le categorie cambiano. Ciao caro, ciao. Mia moglie è laureata in medicina e fa la tassista. Ciao, capito. Ti abbraccio, ciao. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Allora ragazzi, siccome Briatore qui intorno alle 20.07 qui alla Zanzara ha detto che vuole querelare tutti dall'A alla Z, giornalisti, giornali, imitatori, ed imitatore ce n'è solo uno che è Crozza, stiamo cercando di capire, cioè ha sostanzialmente detto che vuole querelare anche Crozza perché lo hanno sputtanato in questa vicenda della lista Falciani, i presunti evasori fiscali. Qual è la parte di imitazione di Crozza che ha dato fastidio a Briatore? La prima non credo, sentiamo un po' quest'altra. C'è chi dice che lei abbia messo i soldi in quella filiale perché sono specializzati nel trasferire la valuta nei paradisi fiscali, no? Cioè, io penso che siano pettegolezzi da fiamme gialle quando vanno dal parrucchiere. Ma non fanno i pettegolezzi le fiamme quando, gialle. Cioè, quando entri alla HSBC, sì, che c'è subito quella sensazione da sogno che ti avvolge, ma è solo quando arriva il tuo turno. Sì. E tu senti un suono assordante dietro di te e pensi, questo deve essere un acuto di Tina Turner. Mentre fa le domicilio. E invece capisci che è la sirena della Guardia di Finanza. Aia. Che sta facendo una retata nella filiale. Aia. E allora capisci subito che non sei più nel sogno, ma nella merda fino al top. Allora andiamo a Treviso, Maurizio, vai. Buonasera Gianni. Dimmi. Io ho chiamato perché avevo un'idea per quanto riguarda il problema della prostituzione. Volevo sapere cosa ne pensi tu. Allora, dal mio punto di vista, siccome le prostitute svolgono un ruolo sociale, e siccome le prostitute migliorano la società, nel senso che quando uno fa sesso diventa più buono, più ma questo non è detto comunque. A me succede questo, penso che succeda. Cioè, quando lei scopa diventa più tranquillo? Si tranquillizza? Più tranquillo, più sereno, più sereno. Divento comunque una persona migliore, perché quando noi qua molte persone, io compreso, quando facciamo sesso da tanto tempo, siamo più incazzati, perciò secondo me hanno anche questo ruolo, migliorano la società. E allora se questo è il loro ruolo, dal mio punto di vista dovrebbe essere assunto dallo Stato. Cioè, Maurizio, assunto dallo Stato no. Dovrebbe esserci una specie di patente. Previa visita medica. Un patentino senza non fare un ordine professionale, una piccola cosa. Ascolta, prostituta controllata, e pagare le tasse, punto e basta. Ascolta Cruciani, io dicevo questo, che assunto lo Stato nel senso che lo Stato trova mette a disposizione dei luoghi controllati dove queste prostitute si prostituiscono, quei soldi che guadagnano vengono pagate e i soldi che rimangono pagano le tasse, e i soldi che rimangono vengono messi a disposizione della società, vengono per migliorare la società, per le scuole, per altre cose. Vabbè Maurizio, ma è la stessa fate via lo Stato. Lo Stato deve mettere via per regolamentare questa roba, dice vabbè, Maurizio. Ma no, assunte dallo Stato, assunte che vuol dire? No. Dai, le aree si possono dare. Vuol dire che lo Stato si assume. Ma scusa, vuoi dare le aree ai rom e vuoi darle alle prostitute? Ognuno si comprerà i suoi. Ma certo, assolutamente sì. No, voglio essere più chiaro, nel senso che lo Stato. Sì, ma non è importante essere più chiari. Ho capito, non possono essere assunte dallo Stato queste qua. Lo Stato deve cacciare la gente, vogliamo assumere le zoccole. Dai, su, Maurizio. È chiaro che non si può aprire una provocazione per dire. I bordelli di Stato c'erano una volta, non ci sono più. Non torniamo ai bordelli, ma non di Stato. Vabbè, Maurizio, ti saluto, ciao, ti abbraccio. Ciao. Un grande ritorno! Parenzo, che lotte che abbiamo fatto, che battaglie. Forse ne faremo una anche questa sera, Chi c'è, Scilipoti? Un membro della segreteria nazionale del Partito Animalista Europeo. Partito Animalista Europeo. È un giovane ragazzo, credo siciliano, che si chiama Enrico Rizzi. Buonasera, signor Rizzi. Buonasera Cruciani. Come va Rizzi? Partito come va? Animalista, non come, è un partito animalista europeo. Esistono anche i partiti animalisti, vabbè, come i pensionati, ci sono pure gli animalisti, vabbè, è normale. Vede Cruciani. Esistono i pensionati, dobbiamo sopportare pure gli animalisti. Abbiamo Come sta Cruciani? Come sta? Bene, bene, ho mi mangiato. Mi viene da chiedere, io l'ho visto che non la sento da tanto tempo. Rizzi, ho mangiato come ieri. Come sta? No, ma è un modo diverso di chiedertelo. Ho mangiato delle bistecche di cavallo. Ho mangiato ieri ancora sera. Ancora vivo e Cruciani come sta? Tutto bene, Cruciani? Ho mangiato ieri sera delle bistecche di cavallo favolose, Rizzi. Bene, immagino. Favolose, ma, favolose. Questo, io il cavallo Cruciani, non lo prima mangio. Prima di iniziare questa augusta conversazione, sì, dimmi. Sì, prima di iniziare questa piacevole conversazione, desidero ringraziarla perché vedo che lei segue attentamente la mia pagina Facebook, quindi sono onorato di sapere che Giuseppe Cruciani sì. viene sul mio profilo Facebook a leggere le mie notizie. Io non ci vado mai, e non so neanche che... del tempo prezioso non per, sì, per non mi prenda, non mi Rizzi, non mi prenda per il culo, no. Non è questo. Non è questo. Questo lo sta dicendo lei. Io esistono perché... anche delle persone che retweetano le cose. Io no, le assicuro che non vado sulla e se ci vado per lavoro. Ma comunque Rizzi, ma va benissimo, no, per carità. Lavoro, vabbè, ma o per lavoro eccetera, ci vado, mi ha chiamato, allora, mi ha fatto chiamare, mi fa piacere, quindi grazie. Allora, Rizzi ha scritto che cosa? Ha scritto prima post Facebook di solidarietà nei confronti del benzinaio Stacchio. Subito dopo ha saputo che era un cacciatore, giusto? E secondo lei il signor Stacchio, il benzinaio che usava il fucile, che fine deve fare? Ma guarda, allora Cruciani, invece di fare sempre le solite domandine idiote, come le domandine idiote? Allora facciamo un'altra domanda. Era un cacciatore, secondo lei che fine deve fare? Sia coerente, sia coerente. Ma io sono coerente, Cruciani, lei la mia posizione sulla caccia non venga a fare. No, il benzinaio dovrebbe scomparire secondo lei. Non faccia lo stupidino al telefono, perché lei la conosce benissimo la mia posizione sulla caccia, quella della mia persona e del mio movimento politico. Lei... Noi siamo contro la caccia e contro movimento i cacciatori. Politico, sì, adesso... guardi, o le piaccia o non le piaccia, mi spiace, ma siamo un partito politico. Quindi quanto avete preso le elezioni? Ma non si vergogna a fare un partito politico che si ispira agli animali? No, non si vergogna, no? Perché ma dovrebbe candidare un cane, allora, scusi. Candidi un cane, candidi un cane. Ma che discorso è? Non si può candidare lei, candidi un cane, candidi una gallina. Tanto al Parlamento europeo c'è Buonanno, candidi, mandi una gallina a Strasburgo, meraviglioso mandare una gallina. Allora invece mandi una gallina, faccio una lista di animali. Aspetta, fammi sentire. Facciamo così. Se dobbiamo discutere, perché una gallina non può votare? Aspetta. Vergogna che la gallina non può votare. Vergogna. Un argomento serio è impossibile, però proviamoci per una volta. Sì. Oggi io l'ho scritto pure sul mio profilo, sono di buon umore, quindi voglio parlare con voi in maniera piacevole e discutere. Allora, no, aspetta. Allora, facciamo una cosa, sì. Benzinaio o cacciatore? Sì, glielo sto dicendo io quello che ho scritto. Mi dica. Allora, io ho scritto un post, anzi due. Sì. Il primo, come ha ben visto. Ma l'ho detto già, io, non c'è bisogno che ripete. No, e magari chi ci sta ascoltando non lo sa. Il primo di solidarietà, il secondo invece, quando ha scoperto che Stacchio, il benzinaio, era un cacciatore, è un cacciatore. È un cacciatore. E no, dunque, lei ha scritto che deve morire come tutti i cacciatori. Benissimo, allora io le benissimo, propongo un'altra cosa. Tanto, facciamo un infame vigliacco assassino che difende le donne dei rapinatori e poi va in giro a sparare ad essere indifesi. Ma è quello che ha scritto. La parola, caro Cruciani. Vai, Rizzi, dimmi. Allora il discorso è questo, è semplicissimo. Questo signore ha avuto, e io l'ho scritto, quindi non può dire che bene, ha avuto. L'ho anche scritto. Ho fatto praticamente. Dai, forza, stai Rizzi, forza. Ho fatto un post dove praticamente ho scritto che questo signore è un cacciatore. Sì. Di fatto sono contento perché comunque ha salvato la vita a non c'è dubbio. Una donna. Però? Quindi per quanto mi riguarda, mi faccia finire e poi le do la parola. Per quanto mi riguarda, il gesto che ha fatto questo cacciatore è un gesto eroico. Perché si è messo. Va bene, abbiamo capito, ma questo già l'avevo detto io. Poi? Che erano degli armatori, dei delinquenti, non parliamo di un armatore, è un'altra cosa. Comunque poi. No, sì, avevano lo sappiamo tutti cosa avevano. Vabbè, poi hanno avuto praticamente il coraggio di entrare dentro una gioielleria e fare un danno enorme. Abbiamo capito, dunque questo signore, visto che ripeto è stato così coraggioso, ha avuto la prontezza di andare a casa, prendere il ha avuto la prontezza. Va bene, benissimo, è stato coraggioso. Allora fare tutto e ha salvato la vita delle donne. Ecco, io penso che una persona del genere vada premiata per quello che ha fatto. Mi stupisco se questo signore fa delle dichiarazioni dove dice che si preoccupa per quello che adesso gli succederà, è dispiaciuto perché ha ucciso una persona quando sappiamo tutti che comunque sono delinquenti. Ma non è uguale avere sparato un rapinatore e andare a sparare un uccello, non è la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa, Rizzi. Cruciani, è la stessa cosa. Se una persona non si prende il dispiacere di uccidere un uccellino che non ha fatto nulla e che quindi è innocente perché non ha un cioè secondo lei sparare al rapinatore è come sparare un uccellino. Sì, la stessa vergognati, cosa. Vergognati. Ma vergognati tu, Cruciani, vergognati. Quello era un assassino che stava andando a uccidere, ha preso un fucile e sapeva benissimo quello che stava andando a fare. Un uccello, una volpe, un coniglio, un cinghiale non ha nessuna colpa, non hanno fatto del male a nessuno. Quindi chiedo a questo cacciatore, chiedo a questo signore, che ripeto e sottolineo, ha fatto un bellissimo gesto. Benissimo, che cosa gli chiedi? Cosa chiedo? Di dimostrare di essere una persona civile. E dunque fare rinunciare a... Bravissimo. Fare un gesto eroico, un gesto di civiltà, un gesto bello, rinunciare al fucile, perché come lui... ha avuto il bellissimo coraggio di prendere e sparare alle gambe e salvare la vita delle persone. Ho capito. Abbia il coraggio di rinunciare alla caccia. Ho capito. Scusami, se l'avessero colpito a morte i rapinatori, tu che cosa avresti detto? Ma perché dobbiamo tornare sempre su questo discorso? Cosa avresti detto? Scusami, no, ma è un discorso serio. Non è successo, Cruciani. Se succede un qualcosa, però ripeto e sottolineo, questo signore ha fatto un gesto bello, io non lo so se l'avrei fatto, se avesse avuto il coraggio che ha avuto questo cacciatore, ha fatto una cosa ma bellissima. Non è uguale sparare al rapinatore e sparare a una cazzo di uccello, a una minchia di uccellino, dai Rizzi, a una pernice, una minchia di uccellino, ma dai, su, si classifica per la persona codarda, vigliacca, ma che codarda, ma cioè, ripeto, lei purtroppo la caccia esiste ed esisterà sempre, punto e basta, dai, forza. Eppure le rapine esistono da una vita, sono cose diverse, ma come la caccia fatta in zone protette con tutte le regole, cioè, comunque per la cosa incredibile è questa, basta. secondo Enrico Rizzi, partito animalista europeo, il benzinaio è un assassino, questo è il punto. Essendo cacciatore è un assassino, abbi il coraggio di dirlo. Sì, ma lo dico, un cacciatore per me è un infame, un e dunque anche Stacchio è un assassino, dillo. Allora Cruciani, io ai cacciatori sai benissimo, diglielo in faccia adesso che stai in mezzo alla merda, diglielo anche adesso, persona, Cruciani, questa persona ha dimostrato di essere diversa dagli infami cacciatori, perché tutti i cacciatori sono sicuro davanti a una scena del genere sarebbero scappati tutti. Ma chi te l'ha detto? Vabbè, sì, maestro, te la fai sotto perché è impopolare andare contro il benzinaio. Lui è un cacciatore, il benzinaio è un cacciatore. E ripeto, per quello che è successo, ha avuto il gran coraggio di affrontare dei vigliacchi, degli assassini. Abbia il coraggio di dimostrare di essere rinunciare alla caccia. Perché dovrebbe rinunciare alla caccia? Ma quando mai? Ma quello si diverte a cacciare, vai, su. Ma lei si dovrebbe, ripeto, ce lo siamo detti già l'altra volta. Lei io vergogno. Dice così, si deve vergognare. Ma che vergogna? L'Italia intera, la figura che lei rappresenta in questa radio. Quando lei dice che sì, uno si diverte. Certo, caccia, anche fucile, secondo le regole. Sì, c'è chi si diverte sicuro. A prescindere che ci sono le regole o meno. Ciao amico mio, ti devo lasciare, Rizzi, ti abbraccio. Ma vergognati tu, va con le stronzate che dici, dai, ciao. Volevo salutare affettuosamente Cruciani e il piccolo Parenzo. I miei saluti, dottor Cruciani. E li non me ne frega anche... niente dei saluti. Lo so. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Buona zanzara a tutti. Radio 24. La passione si sente.